Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, 8:21 primi e 35 secondi. Oscar Giannino da solo, anche questo venerdì, poi lunedì torna Ale, torna, vediamo subito quali saranno le sue reazioni a una cosa che credo si aspettasse, cioè l'addio di Donnarumma dal Milan, a quale sarà molto sensibile, ma credo che lo davamo per scontato. In ogni caso, cari ascoltatori, oggi auguri a chi si chiama Aureliano, perché Aureliano di Arles è il santo del 16 giugno, come a chi si chiama Giuditta o Quirico, e anche però il santo di mio figlio Benno, e questo vescovo tedesco, ha una storia un po' particolare, a cavallo tra il X e l'XI secolo, nel pieno della lotta delle investiture tra la Chiesa, Gregorio VII, Papa, e l'imperatore di allora, quel famoso Enrico IV che poi recitò le scuse al Papa mettendosi in ginocchio nella neve fuori le castella di Matilde di Canossa. E insomma, questo vescovo all'epoca era tirato un po' per la giacchetta dal vescovo di Meissen. Allora l'imperatore lo caccia perché è fedele al Papa, poi tornerà dopo aver giurato l'antipapa, cosa non si fa per tornare al proprio arcivescovado, e quindi l'imperatore lo riammette alla dignità arcivescovile. In realtà la sua storia è diversa, perché viene elevata alla santità da Papa Adriano VI, Papa non italiano, no? E siamo nel 1523, e a quel punto Martin Lutero, proprio sulla nomina di questo santo che ha il nome del mio figlio maschio, scriverà un libello contro il culto dei santi e contro lo spregevole mercato politico che la Chiesa di Roma faceva all'epoca, nominando santi, mandando segnali a questo o quel sovrano. Quindi pensate quante vicende intorno, politiche, tutte politiche, sia in vita che in morte che nell'elevazione alla santità, intorno a questo nome. Oggi nel 1980 usciva Blues Brothers, che per quelli che hanno un po' di annetti in più resta un film straordinario, con Dan Aykroyd, John Belushi, una colonna sonora strepitosa, Aretha Franklin e tanti altri musicisti straordinari, appunto in quel filone del blues. E nel 2013, cari amici arlisti, io ho molti amici arlisti, anche se non ho mai considerato la Harley, Larry Davidson, una vera motocicletta, è un'icona, una cosa cult, quello che volete, però insomma, se si tratta di sterzare non è proprio esattamente quel che fa per voi. Ma nel 2013 Papa Francesco, che come vedrete cito non a caso, aprì Piazza San Pietro a migliaia di arristi che celebravano i 110 anni, 4 anni fa, della grande casa motociclistica, iconica casa motociclistica americana. E cito questa ricorrenza di Papa Francesco non a caso, perché poi più tardi avremo due ospiti per parlare di questa prefazione che ha scritto il Papa, che contiene questo vigoroso appello contro la corruzione. Ieri il Corriere della Sera ha dedicato due pagine, e noi ne parleremo con Emiliano Fittipaldi dell'Espresso e con Franca Giansoldati, vaticanista del Messaggero, per capire: ma questo appello contro la corruzione è un appello che riguarda innanzitutto la Chiesa, i suoi problemi interni, chi gli si oppone all'interno del pontificato e nella curia? Naturalmente ha anche un significato politico, ma allora a quale parte del mondo si applica innanzitutto? Quella dei paesi in via di sviluppo o solo all'Occidente, perché solo l'Occidente è cattivo per il Papa? Tenteremo di capirlo meglio, ma vi dico subito, se volete telefonare 800 24 00 24, inevitabilmente il tema, purtroppo, che bolle nella pentola della politica italiana, è quello degli scontri avvenuti ieri apposta in maniera teatrale, perché la politica è commedia dell'arte, quando mancano gli argomenti, sulla questione dello Ius Soli. E diteci quindi, telefonando 800 24 00 24, siete favorevoli o siete contrari alla norma che ha visto scatenarsi in aula gli incidenti, il leghista Centinaro che ha mandato, sia pur senza volerlo, ma nella foga di rimanere abbrancato al banco quando i commessi del Senato hanno tentato di disancorarlo dal banco perché voleva interrompere la seduta, ecco che ne è venuto un precipizio sui banchi del governo dietro la Fedeli è finita medicata nei locali addetti alle prestazioni sanitarie straordinarie al Senato e il leghista Centinaio ha dichiarato: ho fatto come a Fortalamo, ma voi capite qual è l'immaginario dei parlamentari italiani? Siete favorevoli o siete contrari? Poi ci sono stati scontri anche fuori con quelli di Forza Nuova, Casa Pound, eccetera eccetera. Io vi ricordo che questa legge che cosa prevede? Riguarda non solo i nati in Italia, ma riguarda anche chi non è nato in Italia, che può ottenere però la cittadinanza, nel caso del minore straniero, se è arrivato prima dei 12 anni e ha frequentato uno o più cicli scolastici o di formazione professionale per almeno 5 anni. E nella scuola primaria ovviamente bisogna essere stati promossi, non solo averla frequentata. Lo Ius Soli vale in diversi grandi paesi europei più o meno temperata, nel senso che nel Regno Unito ha la cittadinanza chi nasce nel Regno Unito da un genitore legalmente stabilito, cioè con un permesso di soggiorno, e si può chiedere la cittadinanza in diversi casi dopo aver vissuto nel Regno Unito nei 10 anni dopo la nascita, se non si è nati via più di 3 mesi e così via. E poi ci sono alcune norme speciali per alcuni paesi. In Spagna, cittadino spagnolo chi nasce in Spagna da genitori stranieri se almeno uno è nato in Spagna. In Germania si è automaticamente cittadini tedeschi se si nasce in Germania con un genitore che risiede da almeno 8 anni. Nel caso della norma italiana, oltre a quello che vi ho detto per i minori venuti in Italia ma che hanno studiato in Italia, la condizione da noi che fa scattare il diritto per un bambino nato in Italia da genitori stranieri, il diritto di diventare cittadino italiano, è necessario che il padre o la madre abbia anche qua il diritto di soggiorno permanente o il permesso di soggiorno di lungo periodo per quelli che ne sono extracomunitari. E questo è il primo criterio. Dopodiché servono 5 anni di residenza in Italia del genitore. Per gli extracomunitari, oltre a questi 5 anni di permessi di soggiorno, servono un reddito minimo, un alloggio, eccetera, eccetera. Quindi ci sono condizioni abbastanza, devo dire, precise. Ma siete favorevoli o meno? Perché ieri chi si è opposto la considera, vi ricordo il manifesto fatto da alcune forze da destra, un tradimento della patria. Tradimento della patria. Mi pare che i toni siano eccessivi, ma questa è la mia opinione personale. Io francamente, ve lo dico subito, preferisco la scena di la scelta di un giornale come La Stampa oggi. La Stampa non dedica tutte le prime pagine della politica come tutti gli altri quotidiani che hanno titoli solo su questo: Repubblica, Ius Soli, la destra scatena sa il caos, Corriere della Sera, Lega Governo, rissa al Senato, Il Messaggero, caso migranti, botte al Senato, Il Giornale, Italia Africa, cittadinanza facile, primo sì in Senato allo Ius Soli, ci costerà caro, titolo di Alessandro Sallusti. Ecco, La Stampa di Maurizio Molinari, che mi piace a questo punto di più, fa tutt'altra scelta, perché dedica tutte le prime pagine a che cosa? Come cambia il clima, perché si inquadra la sfida, il no di Trump alla COP21, la sfida di Bloomberg, l'ex sindaco di New York, ma insomma questa alleanza internazionale rotta da Trump, regge o non regge, e dedica le prime 3 pagine a questo. Dopodiché dedica le successive 2 a il rischio di incriminazione, di impeachment, che diventa sempre meno impossibile, diciamo così, negli Stati Uniti, e poi dopo si abbraccia anche i temi dello scontro politico lui solo nel nostro paese. Comunque voi telefonateci su questo. L'altro tema che domina la politica e i giornali è Renzi Prodi, perché si sono visti Renzi Prodi. Titolo della Stampa: Renzi vede Prodi e fa l'olivista, ma Prodi replica troppi veti. Che devo dire? Mi pare su questo che non lo so, mi sembra che il futuro del centro-sinistra che torna con Prodi, a me sembra che il futuro della politica italiana sia sempre l'eterno ritorno, ma lo dico con stima, non è una battutaccia. Tra le cose che più hanno colpito me invece sono due. Oggi, tranne il Corriere della Sera che dedica un articolo di Dario De Vico che condivido, tutti i giornali italiani non reagiscono al vergognoso sciopero dei trasporti in corso. Lo considero ordinaria amministrazione, mettono solo informazioni di servizio. Invece è una vergogna. È una vergogna e fa bene Dario De Vico a scrivere che è una doppia vergogna perché è annunciato e si fa contro le privatizzazioni, quando le Ferrovie dello Stato stanno assolutamente facendo razzia di tutto il trasporto pubblico locale che non è controllato da loro e che i comuni non hanno la forza più di controllare. Hanno appena preso il controllo della linea di metropolitana 5 a Milano, si sono candidati all'ATAC e così via. Allora, bloccare i trasporti in un venerdì di giugno per la privatizzazione, cari sindacati di base, è una vergogna, è una doppia vergogna che Del Rio avesse annunciato 3 anni fa un intervento che indicava come necessario il voto preventivo di un referendum dei lavoratori che vogliono scioperare con tetti minimi di consensi per bloccare servizi pubblici essenziali come i trasporti. L'ha annunciato, non ne ha fatto niente. I politici sono conigli di fronte al sequestro che avviene venerdì di ogni fine settimana dei diritti dei cittadini di trasporto. Però sui giornali italiani questa è una cosa che non scandalizza molto. L'altra cosa che ho trovato surreale, e qui finisco e poi andiamo a parlare degli ospiti del Papa della corruzione, è questa meravigliosa vicenda palermitana del candidato di Lega e Forza Italia, ridicolizzati perché non se ne sono resi conto, che in realtà ha corso da sindaco con il loro sostegno solo per fare un film e per sputtanare la politica, perché adesso ha naturalmente tutte le trascrizioni, le registrazioni dei leader politici eccetera eccetera, chiede la liberatoria, non potrà usarla, non gliela daranno mai, ma la beffa della realtà che viene superata dalla fantasia rende oramai preistorico persino Saviano e chiunque altro, come devo dire, la realtà italiana supera la fantasia. Pensate al segretario del partito che danno il simbolo a chi fa un film e li prende per i fondelli, non solo loro ma anche i cittadini. Naturalmente Ismaele Lavardera sarà convinto di essere un grande pioniere della civiltà facendo così, non si rende conto che sputtana tutti, il mestiere del cinema, la politica, non si sa se è satira, è un comico, è comunque una roba che dà l'idea di un paese sbiellato. Allora andiamo a capire perché il Papa ieri ha dedicato, non ieri, il Corriere della Sera ha rilanciato questa prefazione scritta da Papa Francesco al libro Corrosione, che è scritto da Peter Turkson con il filosofo Vittorio Alberti, ed è un grande appello appunto alla corruzione. Allora andiamo in pubblicità e torniamo subito poi con i nostri occhi. Allora, libro del cardinale Peter Codwappia Turkson, che è prefetto di Castero, del Dicastero per il Servizio e lo Sviluppo Umano Integrale. Rizzoli lo edita con il titolo Corrosione, dedicato alla corruzione, una prefazione del Papa. Franca Giansoldati, ma con questa prefazione, secondo te, Francesco parla anche alla corruzione della Chiesa, della Curia, al suo dissenso interno, oppure no? Ma assolutamente sì, tant'è che c'è anche un passaggio in questa prefazione che lui fa, dice che la Chiesa non deve aver paura, ma lui stesso poi in questi anni, cioè dal 2013 fino a oggi, il tema della corruzione, forse è il Papa che ha parlato di più di corruzione, ma anche all'interno della Chiesa. Mi ricordo un'intervista che ha fatto a Civiltà Cattolica in cui dice: in Vaticano, parla proprio in Vaticano, c'è corruzione, ma insomma io alla fine dormo sonni sereni. Lui parla tanto di corruzione sia all'interno della Chiesa, anche se ne parla a volte con delle metafore, dicendo i religiosi, il clero, insomma i cattolici non devono essere inclini alla vita mondana. Ne parla tanto anche perché lui è portatore di questa visione sociale argentina, latinoamericana. Lui parte dal presupposto che pagano i poveri, cioè sono sempre i poveri a pagare il prezzo della corruzione, E chiaramente la vista in Argentina, la vista in diversi paesi dell'America Latina. Mi ricordo che quando siamo stati in Messico ne ha parlato tantissimo. Il Messico, vabbè, è un paese attraversato da un livello di corruzione molto alto e di narcotraffico, e lì non c'era un discorso ogni giorno in cui non affrontava questo argomento, includendo anche la questione della Chiesa. Ha parlato della corruzione con usando degli aggettivi, usando anche delle metafore molto, senti, ma molto dure. Faccio una domanda un po' provocatoria, del resto fai il mio stesso mestiere, anche se io ho una certa ammirazione di chi lo fa applicato a un mondo che è a cavallo tra questo e quello dell'alto, cioè non riuscirei ad avere la misura necessaria per farlo nei giri con il Papa e così via, probabilmente non sono adatto, perché molti obiettano a Papa Francesco su questi temi, quelli politico-sociali che però sono dentro e fuori, sono nel mondo del secolo ma sono anche nella Chiesa, di usare con intelligenza molte parole anche dure, poi quando si tratta di fare all'interno della Chiesa un po' meno. Secondo te questa accusa è fondata? Cioè il bilancio di quello che ha fatto contro la corruzione per risanare la curia è un bilancio di parole o un bilancio di azioni? È un bilancio in divenire, è giusta l'osservazione che fai. È un discorso un po' lungo, in mezzo Francesco ci mette anche la questione il concetto della misericordia. Detto questo, al netto di tutto, è un discorso in divenire, perché arrivando a Roma, arrivando in Curia, arrivando in Vaticano, Francesco si è reso conto che forse il mondo è un po' più complesso di come gli sembrava in Argentina, esattamente. Dopodiché il percorso che aveva gettato Ratzinger, cioè quello della trasparenza, eccetera, lo sta applicando con, se vogliamo, appunto, in divenire, con gradualità. Però ad esempio anche il fatto che ogni 3-4 giorni nella predicazione mattutina di Santa Marta c'è sempre un riferimento a questo, cioè è martellante, no? La cosa divertente del libro di cui dicevi prima, questo libro in qualche modo è stato un po' l'occasione per il Vaticano. Ieri ha fatto una riunione sulla corruzione, dove c'era anche Cantone, Pignatone, c'erano diversi ambasciatori, eccetera. Sì, però vedi, ecco, Franca, io ti faccio proprio... Quando ho letto quel lancio, quella è la classica cosa che a me sembra comunicazione fuffa, perché Cantone in Vaticano col Papa e la Curia, mi spieghi, adesso lo dico, cioè io non metto bocca su chi disciplina e decide e propone l'altissima comunicazione di chi sta sul soglio di Pietro, però santo Dio, mancava più o meno Saviano, poi c'erano tutti i luoghi comuni del classico convegno all'Italia. Lo dico sapendo che sto violando tutte le sacre regole quando si parla di queste cose, però insomma, Franca Giansoldati, avete capito, dice no, è impegnato, anche se nel modo in cui Papa Francesco ci ha abituato, è un modo diverso, particolare, di questo candidato al posto di Ratzinger ad essere eletto, poi non ce la fa, passa Papa Ratzinger, ma ce la fa comunque, il che significa che non è però un uomo precipitato dal cielo, perché è un uomo che per anni è stato il candidato di una parte della Chiesa al soglio pontificio. Allora, è anche con noi, io ringrazio intanto Franca Giansoldati che ci deve lasciare, ringrazio Emiliano Fittipaldi, giornalista dell'Espresso, autore di libri che hanno fatto molto discutere, è stato più volte, l'abbiamo chiamato come ospite, proprio sui soldi della Curia, come è gestita e come non c'è trasparenza ancora, e poi sugli scandali sessuali, la pedofilia, dell'ultimo libro per Feltrinelli, il titolo era Lussuria, peccati, scandali e tradimenti di una Chiesa fatta di uomini. Grazie Emiliano Fittipaldi di essere con noi. A te che impressione ha fatto questa prefazione del Papa sulla corruzione? Faccio la stessa domanda che ho fatto a Franca. Più parole o più fatti il bilancio fino a questo momento? Innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma non mi ha sorpreso, credo che sia la settima volta che il Papa interviene su prefazioni importanti, libri importanti, parlando di temi legati alla corruzione e alla trasparenza. È sarà almeno la 25esima volta che sento comunque in prima pagina Papa Francesco, da quando era arrivato al soglio petrino, parlare di una guerra necessaria, di una battaglia necessaria alla corruzione, affinché il genere umano migliori, e francamente questo va detto, lo diceva anche la Gian Soldati prima, di come Papa Francesco accusi la curia romana e la Chiesa stessa di essere corrotta fino al midollo. Ricordo che già nel Natale del 2013 parlò delle malattie curiali, le 12 malattie curiali in cui la corruzione, l'avidità, l'avarizia, che poi è uno dei motivi per cui ho titolato così il mio primo libro, fossero, diciamo, causa della crisi della Chiesa. Però io sono abbastanza d'accordo con quello che dicevi prima, questo è un Papa che predica molto bene, ed è un Papa che razzola meno bene di quanto predichi. Questo non vuol dire che l'evoluzione di Papa Francesco sia già fallita, come qualcuno dice quando legge i miei libri o dice quando dice i miei interventi. È una rivoluzione molto più lenta rispetto a quello che la propaganda vaticana o molti, troppi giornali laici raccontano. Vorrebbero e raccontano, esatto. Bisogna, secondo me, avere... cioè, sono giornalisti, cioè, tradotto in due parole senza crearti problemi, Scalfari esagera, perché Scalfari sembra che sia una specie di Martin Lutero che sta risanando tutto. Magari fosse, da una parte, non significa negarne le intenzioni, ma cambiare realtà così vischiosa è lungo e complicato. Capisco bene quello che hai detto? Esattamente, Scalfari ha una fortuna rispetto a me, quello anche rispetto a te, conosce molto bene Papa Francesco a livello personale ed è forse uno di quelli che può raccontarne meglio le intenzioni. Io faccio invece giornalista di testa e cerca di cercare di capire qual è lo spread, no? Tra le promesse e quello che viene raccontato dalla propaganda vaticana. La propaganda non è una parola negativa, esatto, e quanto di queste promesse venga effettivamente realizzato. E rispetto al tema della corruzione è stato fatto molto di meno rispetto da quanto viene percepito dall'opinione pubblica. Lo IOR resta una casa a fatto di cristallo, l'APSA praticamente non è stata toccata, non solo. I capi, gli uomini scelti da Francesco per questa rivoluzione non sembrano i più adatti allo IOR. Non sono immuni dall'aver coperto nei loro paesi seri e grossi problemi. E appunto, ne abbiamo più volte parlato. Mi è interessato proprio che Emiliano Fittipaldi e Franca Gian Soldati, due punti di vista diversi, due linguaggi diversi, come vedete, però ci facciano tutti riflettere. Noi dobbiamo essere grati a Papa Francesco, quindi viva viva anche questo suo intervento sulla corruzione, ed è esplicito anche nella Chiesa. Dall'altra parte, avere una specie di filtro, di esame tra i fatti rispetto alle parole, perché le parole, le intenzioni, chi gli attribuisce parole ancora e intenzioni ancora più pesanti, sono una parte più rilevante di questo pontificato di altri, che venivano criticati da destra, per così dire, perché troppo di destra. Questo invece è un pontificato progressista, dei poveri, del sud del mondo, viva, però... Insomma, a me per esempio il silenzio sul regime Maduro, ve lo dico fuori dai denti, cari ascoltatori, malgrado la richiesta della conferenza episcopale del Venezuela al Papa dicendo non puoi stare zitto su quello che fa Maduro e oramai decine e decine di morti nelle strade, ecco, per esempio, non mi piace troppo, ma questa è una mia critica personale. Grazie anche a Emiliano Fittipaldi, veniamo alle vostre telefonate intanto sullo Ius Soli che anima la politica italiana. Cominciamo con Marco che ci chiama da Piacenza, prego Marco. Sì, pronto, buongiorno Oscar. Eccoci. Innanzitutto sono d'accordo con quello che diceva lei sul Papa, ma questo è un altro discorso. Certo. Allora, per quanto riguarda invece lo Ius Soli, noi abbiamo un'esperienza di famiglia perché mia moglie è insegnante, e riguardo a questa nuova legge che vorrebbe utilizzare quasi la scuola, i cicli scolastici soprattutto per i bambini, sì, per poter creare integrazione, la nostra esperienza è di una scuola sovraccaricata che fa fatica a prendersi anche carico di questo che dovrebbe essere un ulteriore compito. Ah no, questo è... io la ringrazio di aver attirato l'attenzione anche su questo, perché per noi chiediamo alla scuola di far tutto, di essere l'integrazione fabbrica della cittadinanza, però poi soldi... Purtroppo, spesso e volentieri, ad esempio, l'esigenza fondamentale della lingua, ad esempio, viene trascurata a vantaggio del livello di integrazione, che è molto importante, ma che non permetterà mai comunque e i piccoli di poter essere effettivamente integrati. Questo per i bambini, questa è la nostra esperienza, e secondo me questo è un grosso problema della legge, che pone effettivamente un problema di integrazione. No, certo, che se diventa un cancello fondamentale per chi cresce qua, e allora però dobbiamo mettere anche in condizione di poterlo fare funzionare. Grazie, giusta osservazione, almeno secondo me. Andrea da Verona. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci buongiorno. Qua. Allora. Allora, niente. Allora, io sulla legge lo sto apprendendo in questi giorni, quindi non è che so tutto in particolare. Sul concetto, invece, mi sembra incredibile che, anzi, a dire la verità, pensavo che l'Italia fosse un poco avanzata, se ci fossimo già in sostanza. No, no, che, no. Che noi siamo nato, al diritto di sangue. Qua, già. A uno nato qua, ma calma. Io, i miei genitori sono qui da 10 anni, fanno un figlio e dove lo facciamo residente? No, noi abbiamo oltre 1 milione di giovani che sono nati qua, sono italiani a tutti gli effetti, almeno per secondo me sono italiani, hanno frequentato scuole italiane, tifano calcio italiano eccetera eccetera, che non hanno la cittadinanza, quindi sbagli, non funziona così, no. E quindi lo vorresti? La vorrei assolutamente, anche perché... se no non usciamo più, non usciamo mai. E quando cosa aspettiamo? 3 generazioni. Però ti dirò che fortissimo il no anche, molto forte. Andrea da Treviso, come la pensa Andrea? Sì, grazie a Radio 24. Volevo dire soprattutto che questo è un grossissimo problema, ci stiamo collando, un problema africano, ci porterà un danno peggio della Caporetto, per 50 anni torniamo indietro, ci vorrà 20 anni per smaltire un po' la situazione, non ne veniamo più fuori, abbiamo un problema delle banche, se fossimo uno Stato senza debiti potremmo farlo, ora come ora è impossibile per meno 10 anni finché non sistemiamo i grossi problemi di questo paese, tra la giustizia, dai risarcimenti delle banche, da quindi gente lei, che capisco, fa la fame. Se capisco bene il suo no, che è molto forte, molto netto, ma sono in tantissimi a pensarla così, io non mi permetto di giudicare, io faccio solo l'osservatore. Però non è una questione tanto per lei il sangue, la razza, gli italiani, gli stranieri, quanto innanzitutto la cosa dice, questo significa... dover avere risorse per i servizi sociali, l'integrazione, la costruzione delle condizioni fondative per poterli integrare, dargli la stessa lingua, cultura eccetera, tutte spese in più che per come siamo messi e per le priorità che abbiamo per i nostri guai economici, magari avercele ma non le abbiamo, capito bene? Esatto, bravissimo. Vediamo che l'Europa non ti porti come la Grecia. Ok, allora questo è un altro motivo di quello che dicono no. Sentiamo ancora se funziona il cursore. Angelo che si chiama la provincia di Pavia. Angelo. Sì, grazie. Io volevo intervenire se il dottor Giannino non vede in pericolo anche nel fattore religioso. Perché questi bambini a cui ci apprestiamo a dare la cittadinanza italiana, una volta adulti non voteranno certo una persona di religione cattolico cristiana, voteranno musulmano e noi ci troveremo a essere governati da musulmani. Allora, Angelo, io non ho la palla di vetro, non credo che si possa prevedere che cosa voteranno. Non lo credo davvero, perché ci sono immigrati che negli anni, integrandosi in Italia, hanno votato, sono stati anche candidati dalla Lega, da Forza Italia, dalla sinistra, dalla destra. No, non credo questo. Però tu poni un problema chiaro di matrice culturale e religiosa, sei preoccupata. Questo significa costruire le condizioni per un'integrazione. Io credo, io non credo nel modello multiculturalista e basta. Credo che per diventare cittadino italiano bisogna condividere dei fondamenti di città, bisogna rispettare le leggi, bisogna dichiarare e sorvegliare poi anche che le leggi e i principi italiani si rispettino. Io sono perché le bambine che crescono qui di famiglie musulmane non possono essere obbligate a matrimoni o a pratiche di escissione di parti dei loro genitali e così via. Quindi non sono un multiculturalista eccetera. Credo però che una di queste condizioni, quello che riguarda l'integrazione insieme alla convivenza civile tra religiosi non combattenti, tra religioni non combattenti, si possa fare nella modernità, si possa fare. Questo mi limito a dire, questo come voteranno non lo sappiamo, per così dire. Comunque il tempo oramai è tiranno, mi dispiace per chi oggi è vittima di questo indegno sciopero dei trasporti fatto contro privatizzazioni che non esistono. E però detto questo, continuate nella scuola all'ascolto di Radio 24. Io ci sono anche oggi pomeriggio, ci sono anche domani mattina dalle 10 alle 12 con i Conti della Belva. Poi lunedì torna il nostro Alessandro.